Ah sì, la colombella e il Sepulveda. Eh? La colombella, ma non è la gabbianella? Ah. Ma si mangiano le gabbianelle? Ma fa un po' schifo. Però ci sono i piccioni. Si possono fare i piccioni scappati. Sì, ma non quelli di Piazza del Duomo. No. Chiedo asilo. Oggi è martedì, quindi largo la bulia. No, no, la bulia no, capa, sì, la bulia non, dai, è radiofonica. Ho la mia scaletta di malanni giornalieri, martedì è il momento della bulia. Ma non si può fare chiedo asilo con uno dei due conduttori che è abulico, scusa. Vabbè, se radio, finora uno dei conduttori sei stato tu, direi che nulla è impossibile. Vabbè, allora faremo tutto del nostro meglio per portare a casa anche questa puntata, che però, vi avverto, vede K in condizioni di abulia del martedì. La bulia del martedì. Ma forse era meglio quando di martedì entravano le ballerine creole, cosa dici? Anzi, forse per guarirti dalla bulia non c'è niente di meglio che un po' di fiesta. Anzi, di fetto. Cos'è sto casino? Oh, dai! Mi viene mal di tetto. Ma come? La fetto. Ma questo è il Mardi Gras di New Orleans, anzi di Nouvelle-Orléans, quello che ti piaceva, ma basta, tanto. Ma lasciami in pace, ma dai, balla al Mardi Gras. Guarda, fa come me, guarda. Sì, per carità. Balla, divertiti, coriandoli, belle donne, alcol, crofisce tuffè. Sì. Guarda, c'è anche Jérôme. Che apatia, che abulia. Ma no, niente, non ti riprendi nemmeno col Mardi Gras. No, per farmi passare la bulia, ha da passare il martedì. La bulia non si risolve con un po' di coriandoli, due ballerine e il bananone di Jérôme. Perché bananone? Scusate. Perché? Freestyling! Che sarà anche della nostra vita, perché da quando lunedì scorso i Magnifici 5 si sono affrontati su Sky in un cinquello con molta esclusione di colpi, e allora Beppe Grillo, nella apposita lista che l'autorevolissimo quotidiano La Repubblica ha stilato per definire quali sono i pericoli sismici, è scivolato al secondo posto. È scivolato. E invece al primo posto siamo arrivati noi, i talk. Ora, talk. Lasciamo da parte la reazione che avrebbe quel giornale se qualcuno si presentasse in televisione e dicesse: dal momento che c'è internet, un giornale come La Repubblica serve soltanto ad incartarci la frutta, non vabbè, più vedi, a mezzogiorno ma alle 7 del mattino. Non riesco a immaginare le reazioni. E ammettiamo invece che vabbè, è qui, è così, sta rosicando, rosica, un tempo, perché è un oggi è martedì, ad esempio, un tempo di martedì si diceva: ah, stasera c'è Ballarò, no? E ci si riuniva tutti intorno alla TV a vedere Floris, un po' come ai tempi di Lascio Raddoppia e Mike Bongiorno, erano occasioni di grande... Stai un po' mitizzato, no, Drago, dici? Sì, un po' sì. Ma forse. Ma come? Però... Il gruppo d'ascolto per Floris. Ma però lo spirito comunque era quello, c'erano quei due o tre programmi che facevano resistenza contro Berlusconi. Ma adesso Berlusconi non c'è più. Non c'è più, e quindi si è mosciato tutto. E niente più record d'ascolto per quelle trasmissioni. Certo, perché Berlusconi garantiva il giusto dosaggio di chalice televisivo. Ah, chalice. Permetteva televisivo a tutto il mondo di talk di non ammosciarsi. E adesso con Monti però. Adesso con Monti è tutto in discussione. E come avevamo già detto, dopo lo show alla X Factor delle primarie del centro-sinistra, c'è aria di morte dei talk show. È morto. E allora rottamiamo anche i conduttori di talk show. Sì, ma la radio invece? Cosa c'entra la radio? I programmi tipo Zapping o La Zanzara, quelli invece vanno bene così. Ma non come sono talk show. Non sono talk show. No, sono programmi di satira. Quindi, no, satira. Cioè. Poi c'è anche il pubblico che chiama da casa per farsi mandare a cagare dal conduttore, quella specie di... Sì, quindi funzionano proprio per via del pubblico che telefona da casa per farsi mandare a cagare. È masochismo radiofonico. Sì. Beh, caso vuole che i talk show vadano in crisi dopo che il bambino dai capelli grigi Beppe Grillo li ha scomunicati, ha vietato a tutti quelli del Movimento 5 Stelle di partecipare ai programmi di Rai, Mediaset e La 7. Soprattutto c'è la morte con Formigli. Ma povero Formigli. Vabbè, come povero Formigli? Scusa, già ha dovuto Grillo farsi da parte per lasciare il posto a Santoro. Adesso si becca pure la fatwa di Beppe Grillo. Vabbè, una soluzione geniale per risolvere la fatwa, non lo so. Una soluzione geniale in realtà per risolvere la crisi del talk show arriva da Fulvio Abbate, un amico, anzi sicuramente ci starà ascoltando, salutiamolo. Ciao Fulvio. Abate, dalle frequenze web della sua Tele Durruti, dice così: da un po' di tempo i talk show televisivi vanno malissimo. Ecco. Per questa ragione Fulvio Abate pensa di sostituirli con il talk show muto. Muto. Come nel film di... l'ultimo film di Buster Keaton, chiamato appunto film, L'ossessione dello sguardo. Ecco. Così li immagino i talk show muti. E poi Fulvio Abate si mette a fissare in camera con intensità più o meno accentuata, e quindi una soluzione potrebbe essere questa, no? Il talk show muto. Adesso K mi sta fissando intensamente. Vuoi dire che è già cominciato a fare lo show muto? Un po' muto, muguno. Perché alla radio non si può, Abate parlava di televisione. Vabbè, allora tutti zitti, anzi facciamo lo talk show. Tuo papà ha il fuoristrada nero e il mio ha un cammello d'argento. Tuo papà lavora al ministero e il mio fa le pizze di vento. Tuo papà ha un orologio firmato? Il mio chiede l'ora agli gnomi. Tuo papà è un ingegnere avvocato? Il mio è un domatore di fiumi. Tuo papà ha 1000 azioni di borsa? Il mio ha una borsa da spesa. Tuo papà ha 2 auto da corsa? E il mio corre a piedi in discesa. Insomma, ho capito, tuo padre è più ricco, più bello, vincente, più grande, potente, più forte, più duro, più fiero del mio. Forse è vero, però tu non conosci mio zio. Impazza la domanda dappertutto, K. Quale? I bambini hanno bisogno di un papà e di una mamma, o anche due papà o due mamme vanno bene? Chiediamolo ai bambini, no? Bambini. Solo che oggi però non c'è il bambino Alberto, quindi a chi lo chiediamo? A nessuno, la domanda resterà lì senza risposta, anche perché io poi sono per la varietà in ogni caso, quindi... Quindi sei omofobo? No, quale omofobo? Sono per la varietà, anche se mi chiedi meglio per un bambino avere un cane e un gatto, oppure avere due cani o due gatti, io ti rispondo meglio un cane e un gatto, c'è più varietà, capito? Sei motivato come opinione. Anche no? I genitori messi alle strette ti dicono che l'ideale è avere due figli, un maschio e una femmina, cioè quelli che hanno due maschi e due femmine hanno sempre avuto questo rimpianto. Ma se hanno due maschi e due femmine? Quello è un po' un casino. Però sempre meglio la varietà, va bene. Quindi un papà e una mamma, un figlio e una figlia. Sì, ma sono cose diverse, capito? Però. Scusa, tu mischi piani diversi, fai dei salti logici che in apparenza hanno senso, ma poi in realtà non hanno senso. Ma perché? Io sono sicuro che se un bebè sapesse parlare, direbbe che preferisce avere sia la mamma sia il papà. Se un cane potesse parlare, anche un padrone e una padrona. Non puoi parlare. Sta zitto. Allora, invece, non può parlare il neonato, e quindi si becca quello che ha, non ha scelta. E se si trova figlio unico, maschio, di due papà, dai, non mi sembra il massimo, tutti maschi, che vita è? Tu staresti sempre con tutti maschi, sempre. Ma non lo so, io su certi argomenti non mi esprimo, così evito di dire le cazzate che dici tu. Ma anche gli omosessuali, se pensassero ogni tanto quanto è bella la varietà, no? Magari guarirebbero di questa... Guarirebbero cosa, Drago? Ma cosa? No, cancelliamo la parola guarirebbero, rifacciamo dall'inizio. Ma Drago, ma sei impazzito? Ma vedi, comandano loro, sono loro, loro che comandano. Loro, vabbè, dai, allora faccio lo show muto come piace ad Abate. Meglio. Così. Molto meglio. Mancano 24 giorni alla fine del mondo. Ma ancora 24 giorni, ma non passano mai. Non passano mai, meno male, no? Come? Man mano che ci avviciniamo al 21 dicembre, comincio a credere sempre di più alla profezia Maya. Arriveremo al 20 dicembre che io sarò tremante sotto il letto nella speranza che non mi trovino gli UFO. Ma 24 Maya, giorni sono un'infinità, sono già lunghissimi, 10 minuti al giorno con te, figurati quanti 10 minuti ci sono in 24 giorni. Non lo so. A proposito. Quanti 10 minuti ci stanno in 24 giorni? Dai. Un'ora contiene 6-10 minuti, giusto? 10 minuti. Ok. 24 ore contengono 6 per 24. 144, giusto? 10 minuti. Quindi 144 10 minuti per 24 giorni, che sono i giorni che mancano, non lo so, però insomma, visto che ci sono arrivato come ragionamento, Carlo, ho fatto tutto giusto, 10 minuti, in un'ora ci stanno 6-10 minuti, in un giorno 144 10 minuti, vabbè, la loburia del martedì ho capito, però questa qui è proprio una ronfata, vabbè dai, a domani, mercoledì.